La stagione calda, la notte armata. Mesi di metallo, mi sto innamorando di te, morena. Esile ragazza, come sei arrabbiata. Guardati le spalle, perché mi sto innamorando di te, morena. A giugno, in giro per l'Italia, mi chiudo in camere d'albergo dove non passa l'aria. In 4 o 5 più una sostanza. E tu, ti starai divertendo lì al sud. Starai morendo di caldo, con quello sguardo di ferro. Severo fino a quando non si incontra con il mio azzurro ancora più cattivo. Mi fa diventare riccio, mi fa ritornare a te. Ripenso a te soltanto mo, perché da lontano vedo che sta tornando. La stagione è calda, la notte armata. Mesi di metallo, mi sto innamorando di te, morena. Esile ragazza, come sei arrabbiata. Guardati le spalle, perché mi sto innamorando di te, morena. La meditazione è peggio del doping. L'inferno è una piscina vuota, dentro gente che ci nuota. Non si accorgono che è vuota perché sono degli idioti. E le tue parole sono trappole per topi. 8 miliardi siamo troppi, italiani troppo pochi. Ma se non vuoi fare un figlio allora è giusto che ti droghi. Morena, amarti non è mai stato un problema, ma solo un meccanismo di difesa. La stagione è calda, la notte armata. Mesi di metallo, mi sto innamorando di te, morena. Esile ragazza, come sei arrabbiata. Guardati le spalle, perché mi sto innamorando di te, morena.